fare tutta la... Resto Radio Convento, per raccontarsi, per raccontare. Ed eccoci qui, siamo tornati in diretta su Resto Radio Convento e come diciamo spesso, solitamente questo è uno spazio dedicato ai festeggiati, ai protagonisti di una serata, di una festa, ma ci piace anche ogni tanto condividere le emozioni e le sensazioni di chi accompagna questi festeggiati, quindi degli amici, insomma di tutti gli invitati, come il caso del ragazzo che abbiamo qui vicino a noi ai nostri microfoni, che non festeggia in prima persona ma qui a festeggiare un compleanno di un amico, ma insomma ci teneva intanto a fare gli auguri a lui e a raccontarci qualcosa di questa festa. Benvenuto intanto. Ciao, benvenuto, questa è stata una festa bellissima, il locale è molto molto bello e volevo augurare appunto buon compleanno al mio amico Leonardo. Oh Leonardo, intanto tu come ti chiami? Giulio. Giulio, da dove vieni? Io vengo da Vicenza. Ok, immagino anche il tuo amico Leonardo, quindi sì, esatto, ok sì. So che è anche una data, un compleanno, un festeggiamento insomma sì, relativamente importante, perché è un'annata insomma che cambia un po' di, certo, cose, dici sì, un po'. Beh sì, è un'annata abbastanza importante, cioè 30 anni comunque è una mezzo 30 secolo, anni no? 30 anni sì, 30 anni è un punto di svolta sicuramente, esatto, no? della propria vita. E sai anche dirci quando è stato il giorno giusto, quando sarà? Beh, oggi. Ah, 19, sabato 19, quindi è riuscito a festeggiare puntualmente, esatto, nel giorno insomma che ricorreva il suo compleanno. Da quanto vi conoscete tu e Leonardo? Beh, ci conosciamo da un 5-6 anni. Ah. Quindi un po' di tempo. Come vi siete conosciuti? Cosa vi lega insomma? Ci siamo conosciuti per caso, in realtà ci siamo conosciuti in centro parlando di una cosa e l'altra e quindi... Ah, casualmente? Casualmente, sì. Pensa te. Quindi che solitamente gli incontri si fanno in discoteca, nei locali, nei bar, eccetera, eccetera, invece proprio in centro a Vicenza. Sì, esatto. Casualmente vi siete, sì, conosciuti, sì, e siete diventati amici. Esatto. Riuscite tramite anche... suo fratello in realtà. Sì? Però sì, me l'ha presentato suo fratello. Ah, per una terza però... persona. Esatto. Beh, immagino quindi riusciate anche a frequentarvi molto spesso. Sì, abbastanza, sì. Lui lavora molto, quindi il tempo non è tantissimo, però sì. Che lavoro fa? Dici un po'. Lui ha un'azienda sua. Ah ok, quindi... imprenditore quindi. Sì. Insomma non è facile, non è intanto male. Complimenti a 30 anni perché è giovanissimo, già insomma un ruolo di grossa responsabilità. Tu invece? Io suono, faccio DJ. Di professione? Sì. Ah quindi, fantastico. Sì, complimenti anche a te che riesci a campare di questa immagine o passione. Grazie. Ho una data molto importante che, dato che sono qua, vorrei ricordare. Devi. Ambito. Sabato 26 ottobre, sabato prossimo, okay, suonerò con Ari Grass e Lady Brian. Uh-huh. E, a Lonigo, un locale che si chiama Disco Movida Disco Food, quindi vi aspetto anche lì. E il 9 novembre vi aspetto lo Skylight di Verona. No, bene, bene, che genere fai? Io faccio techno berlinese. Techno berlinese? Sì. Cioè specificamente techno berlinese? Che differenza ha rispetto alla techno elettronica, immagino, la normale? La techno elettronica normale è più soft, diciamo che la techno berlinese ha un basso un po' più corposo, è sì? Uno stile abbastanza underground. Ma berlinese, scusami l'ignoranza, però proprio per capire, berlinese inteso di Berlino? Di Berlino. Ok, quindi suoni solo musica tedesca? Bene o male sì, butto anche su pezzi di Detroit, che comunque la techno è nata a Detroit. Ok. Però principalmente buttiamo su... Ma berlinese inteso come produzione, inteso come un certo tipo di suoni, cioè cosa caratterizza una caratterizza canzone? Il suono berlinese comunque le sfumature molto dark. Ah ok, quindi è un genere, sì, è un genere, sì, non sì, è un... cioè non sono tutti artisti tedeschi per intenderci, no, è proprio parte, una tipologia, sì, una tipologia di genere. Sono tedeschi loro, con label tedesche comunque, okay, di produzione, quindi... La maggior parte loro sono tedeschi in sé, però usano anche suoni comunque abbastanza dark, abbastanza. Ok, di... e come mai tra i 1900.000 generi musicali ti sei, non lo so, avvicinato a questo? Magari è lui che ti ha scelto indirettamente, insomma, com'è andata? Allora, come mai io sono partito con la musica classica ancora quando ero molto piccolo, perché mia mamma ha lavorato in conservatorio. Ah però, quindi suoni, immagino. Cosa? Ho fatto fiato per 4-5 anni, ho fatto flauto traverso e clarinetto. No! Poi mi sono spostato nel mondo della musica elettronica e da lì non, sono più uscito, nel senso. Ok, quindi hai iniziato ad ascoltare quel tipo di genere, no? Ho iniziato ad ascoltare, ho iniziato a studiare, ho iniziato a produrre. Ah, produci anche? E da lì sono partito e adesso sono arrivato a un certo punto, insomma. Insomma, riuscire a viverci non è facile, quindi se ce la fai. Spererei di entrare anche dentro un'etichetta, ho iniziato ad avere dei contratti in mano, quindi adesso vediamo un attimo come vanno le cose. Insomma. Ok, e come va, cioè, nel senso, come è percepita in Italia? Come va in Italia questo genere? E ti faccio anche una domanda in parallelo, dove va forte? Immagino la risposta sia scontata in Germania, ma magari no. Germania sì, Austria, Repubblica Ceca. Est Europa, quindi sì, Est Europa va molto, e qua in Italia in alcuni club, dipende dove vai, soprattutto i club che vanno di più qua in Italia presumo che siano Spazio 900 Roma, okay, che spingono molto il genere techno, e purtroppo il Cocorico, come sappiamo tutti, sì, che ha chiuso. Spingeva molto quel genere lì, e vedi che è informato e preparato come è giusto che sia del proprio lavoro. Questo implica che sei anche andato all'estero a suonare o non ti è ancora capitato? All'estero no, però in Nord Italia e in limitrofi sì, spererei di avere qualche data in futuro all'estero. Adesso sto appunto contrattando una data a Londra, vediamo cosa viene fuori. Ma ti autopromuovi o ti fai aiutare? Allora io mi autopromuovo, nel senso che mi spingo da solo, sto cercando un manager, adesso un management che mi segua, e adesso ho organizzato ho creato uno stampo di elettronica, si chiama Horus, e quindi sto spingendo su quel punto lì, e quello è insomma che sto facendo adesso. Bene, bene, dai, ci fa piacere. In chiusura poi insomma fare anche gli auguri o dire qualcosa al tuo amico, al festeggiato. Beh, mandargli un messaggio ancora, e sono contento che mi hai aspettato qua, ti ringrazio e grazie della serata. Oh, bene bene, facciamo gli auguri anche noi, ci uniamo ovviamente e ti facciamo anche personalmente l'in bocca al lupo per questa data importante e soprattutto per questa carriera o speranza di carriera nel mondo della musica, che se ti appassiona così tanto è giusto che ti ricompensi anche in termini di soddisfazione e date nel tuo caso per poterci davvero vivere. Allora grazie mille per essere stato con noi, grazie, e in bocca al lupo per tutto. Grazie mille. Ciao ciao ciao ciao.